La soluzione deve essere fatta al 25% di sale di boro e dovete preparare 36 kg di miscela. Quanti kg di sale di boro vi servono?